avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps, je me suis réveillée en sentant. Non so quanti avranno avuto la stessa idea, forse tantissimi, sembra banale, scontato. In questa giornata ricordare, ma lo fanno tutti gli anni, quest'anno non credo che ci sia una particolare ricorrenza, una canzone che forse farà pensare, sospirare qualcuno che ha qualcosa di più di 40 anni probabilmente. Seduto in quel caffè io non pensavo a te. Il 29 settembre è dall'amore che nasce l'uomo, canzone pubblicata dall'Equipe 84 nel 67, poi la ricanto Battisti, basta, finisce qua la citazione musicale, non me ne importa assolutamente nulla, questo è sentito semplicemente per accarezzare gli animi, predisporvi all'argomento del giorno. Per anticiparlo, il sottotitolo è Dall'amore che nasce l'uomo. Questa parola, amore, sembra una parola che è stata sufficientemente esorcizzata dalla pratica e dall'abuso che ne è stata fatta, dalla diversificazione attraverso l'esperienza, attraverso la letteratura, attraverso la razionalizzazione del termine. Io ieri sera ho dovuto prendere dei farmaci che mi abbassassero il livello di zuccheri nel sangue perché ero andato a cena con due amiche, due fantastiche ragazze, età media 40-45 anni. Beh, per tutta la sera io ho avuto attacchi veramente di iperglicemia perché non hanno fatto altro che parlare d'amore. L'una raccontava di una sua amica meravigliosa, sai, a 45 anni, stupenda, naturalmente donna bellissima, iperrealizzata, iperaccasata, iperprofessionalizzata, che ha trovato l'amore, ha trovato un ragazzetto un po' sfigato, poverino, che l'ha andato a prendere da una remota provincia d'Italia. Pensa, lui ha lasciato tutto per lei, ha abbandonato, cosa ha lasciato? La mamma che gli faceva la frittatina la mattina? No, ha lasciato tutto, adesso vive da lei. Dico, ma che fa tutto il giorno? Niente, sta da lei, si amano. Dico, vabbè, beato lui, dico, e lei cosa vuol fare? No, niente, si ama, vedessi, si amavano due bambini innamorati. E attacco, primo attacco. L'altra amica mia si era appena fidanzata, non so, qualcosa del genere, e aspettava gli sms di questo suo fidanzato, quasi sessantenne, immagino, qualcosa del genere. Gli è arrivato l'sms, adesso lo richiamo, no, non lo richiamo, mamma mia, cosa succede? Non mi sta richiamando, forse mi richiama. E cinguettano tra di loro, io avevo anche tenerezza, molto affetto, sono due amiche a cui voglio molto bene, ma sembrano delle bambine di nemmeno scuola media, innamorate dell'amore. Io ho provato cinicamente ad avanzare qualche timida mia ipotesi sul fatto che l'amore in fondo sì, sia una bella cosa, sia una fugace maniera per dimenticarsi della fallacità della nostra esistenza, sia un insieme di reazioni chimiche che sono un lontano retaggio dell'estro che ci impone l'accoppiamento per perpetrare la nostra specie, che è stato lungamente raccontato, discettato, vivisezionato dall'arte, dalla letteratura, dalla poesia, dalla filosofia, poi dalla psicanalisi, dalle scienze del profondo. Tutto sappiamo sull'amore. Capita a noi di innamorarci, cioè capita di avere questa sorta di malattia che è una dipendenza, pari a quella del fumo, pari a quella dell'alcol, pari a quella per il gioco d'azzardo, per cui a un certo punto ci fissiamo con una persona, pensiamo di poter divorare questa persona, pensiamo che questa persona ci appartenga totalmente, quindi non ci capacitiamo, non ci diamo l'idea che questa persona possa sfuggirsi, e in questa sorta di reciproco rincorrersi nello sperare di essere corrisposti definiamo la fattispecie amore. Ma no, ma cosa dici? Ma sei pazzo? ragazzo. È una cosa bellissima. Tu non puoi capire. L'amore è bello. Lo viviamo alla giornata. Ecco, oggi vorrei dire questo. Perché voi donne vi siete così rimbecillite che all'età di 40-50 anni ragionate come ragazzine di prima media? Perché ancora pensate all'amore? Perché pensate che gli uomini siano questi fantastici bamboccioni illuminati? Lo guardava ancora l'amica che si era presa dal ragazzino che aveva tolto dalla frittatina della mamma, se l'era portato a casa e lo manteneva, lì lo teneva su come un fuco. Leggetevi Bellamy, leggete, c'è una letteratura trionfante che racconta di questi falò senili che risvegliano nelle signore passione per giovincelli che non cercano altro che navi scuola o iniziatrici alla loro carriera professionale. Non credete che esistano soltanto le olgettine o le subrettine. C'è anche una folta schiera di ragazzetti un po' svogliati e sfigatelli che non chiedono di meglio, trovare qualcuno che apra loro le porte della società. Beh, invece no, l'amore. Probabilmente c'è una grande carenza di maschi disponibili a concedersi amorosamente delle donne, e quindi evidentemente questa idea dell'amore. Questa mattina parliamo delle donne fissate con l'amore, prendendo una case history, prendendo l'esempio di una signorina gentile, di grande avvenenza e di notevoli qualità callipige, che è venuta da noi e ci ha raccontato una folle storia, una storia che io affiderei al mio amico Beppe Neri, ma che in realtà è sintomatica di questo impazzimento femminile per l'amore. Mi chiamo Livia, ho 37 anni e sto vivendo il sogno di ogni donna, credo, perché mi sono fidanzata finalmente un anno fa con l'amore della mia vita. Cosa intendo per amore della mia vita? Intendo il ragazzo che ho incontrato a 17 anni e mezzo, entrando in un pub a Roma, di cui mi innamorai follemente in maniera non corrisposta. Io entrai e lui stava bevendo qualcosa, non lo so, mi ricordo anche come era vestito. E ho visto questa faccia che mi piaceva tantissimo, questi occhi scuri, il sorriso. E proprio mi innamorai come si innamora la gente del liceo, insomma, totalmente. E lui proprio non sapeva proprio che io esistessi. 800 24 0024, vi prego chiamate, che sono totalmente solo con l'indistruttibile, inossidabile patrimonio del mio cinismo o della mia disillusione nei confronti delle donne che parlano di queste fantastiche storie d'amore. Ora, questa ragazza di cui vi stiamo parlando ha una storia d'amore ventennale. Per 20 anni ha fatto le poste a un suo compagno di scuola, ci ha messo 20 anni, l'ha tartassato, tormentato, seguito, attentato, sedotto, vellicato, ha fatto di tutto. Dopo 20 anni finalmente ci si è messa insieme. E che giorno ci si è messa insieme? Il 29 settembre. 800 24 0024, vi prego, questa mattina datemi il vostro solerte e, se volete, irritato contributo nel definire, nel capire perché le donne ancora credono nell'amore, ancora pensano che l'amore sia questa fantastica e stravolgente esperienza, quando in realtà, secondo me, secondo noi che ormai abbiamo già un punto, un bel piede nella fossa emotiva, l'amore sì, è una bellissima e fantastica, fugace, fuggevole, lampante esperienza che dà dei momenti di straordinario ristoro a delle esistenze che altrimenti sarebbero riarse nella solitudine e nell'appiattimento, nell'immanenza delle nostre funzioni quotidiane, fatte di lavoro, fatte di scuola, fatte di famiglia, fatte di affanni, fatte di malattie, fatte tante cose molto meno piacevoli. Per mesi, mesi e mesi ho cercato di avvicinarmi a lui, ma lui proprio forse sapeva il mio viso, chi fossi, ma non sapeva il mio nome sicuramente. E poi era fidanzato con una ragazza molto più bella di me. Ci siamo rivisti poi, mi sembra, nel 97, perché lui nel frattempo andò a vivere a Londra e quindi io l'ho persi di vista, persi anche la speranza di rincontrarlo. E lo rincontrai per caso in un ristorante a Roma, a Ponte Milvio. Io andai là con un mio amico che conosceva un suo amico. L'ho visto così ed era uguale, insomma, era bello come sempre. Mi avvicinai e gli dissi: sai che io non so se ti ricordi di me. Lui fa: sì, vagamente. Io quando avevo 17 anni ero innamoratissima di te. E lui pensava che scherzassi, perché insomma non se l'aspettava questa cosa, anche perché quasi non mi conosceva. E poi era così interessato, incuriosito più che altro. Pensava comunque che lo stessi prendendo in giro. E invece io ero serissima. Thank you. sarei oltre che cinico, che non trovo che sia un limite, sconsideratamente folle o inconsapevole delle infinite variegate sfaccettature dell'animo umano, per non giustificare, non capire che possa esserci anche questo atteggiamento, possa esserci anche l'ossessione per una persona. Ne ho conosciute tante di persone ossessionate, probabilmente ne ho persa memoria perché ormai affonda le radici in tempi lontanissimi. Sono stato anche oggetto di ossessioni amorose e vi dico che la sensazione, ricordo che non mi spiegavo perché una persona ti guarda con gli occhi trasognanti, perché dice quanto sei bello, quando sai benissimo di essere una banalissima persona, perché ogni cosa che dici sembra che stai distillando gocce di profondissima saggezza, quando dici delle cose banali, che le dici in famiglia, le dici a casa, le dici con gli amici, le dici nell'autobus, ma non scuoti nemmeno un attimo l'attenzione di nessuno. Perché per certe persone improvvisamente scattano delle alchimie così profonde, così trasfiguranti, così conturbanti? E perché le donne sono quelle che poi riescono ad ammettere questo sentimento, anzi si ostinano e continuano, ribattono il chiodo finché finalmente non riescono a infilarlo fino in fondo nella tavola indissolubile della loro passione. Fabio, buongiorno. Buongiorno a lei. Cercavo ragazze, mi chiama Fabio, comunque va bene lo stesso. Ragazze, le ragazze che intendo io sono le donne che oggi sono il più fantastico universo di indagine e di rivelatore dell'esistenza, che sono le donne che vanno dai 35 ai 55 anni più o meno, ecco, questa è l'età in cui le donne oggi si sentono veramente la chiave dell'universo, un universo in cui gli uomini hanno fallito la loro missione, le donne invece ancora mantengono forte la posizione. Prego Fabio, scusi. Esatto, proprio perché ho esperienza con una donna di 40 anni che si aggrappa. E lei quanti anni ha, e quanti anni aveva al tempo? Io ne ho ancora 45. Quindi lei è con una quarantenne, una sua quasi coetanea, sì. Esatto. E praticamente lei si aggrappa all'amore, secondo me, per stare aggrappata a una gioventù che sfugge, così come le... Ecco, vede, questo non, io non volevo essere così impietoso. Quindi le donne di questa generazione parlano di amore perché è come vestirsi da ragazzine, adolescenti, è come Baby Jane che si veste da bambina. Sì, è come tingersi i capelli, è come farsi il seno, è come farsi la pancia, e aggrapparsi all'amore vuol dire rimanere giovani. Che non c'è niente di male, è comprensibile, no. Anche noi, sì. Che ne so, cioè, giochiamo a calcetto, facciamo delle cose ignobili per sembrare giovani. No, io no, però... Di male c'è che ci torturano poi. Lei si sente torturato da un'ossessionata dell'amore? Assolutamente. Ecco, qual è il punto di non allineamento dei desideri e delle volontà? Lei vorrebbe magari avere una storia anche di passione, anche di amore se vuole, ma non vorrebbe verbalizzare l'amore. Io trovo che la verbalizzazione dell'amore sia la tomba più profonda di ogni passione e di ogni innamoramento. Perché le donne parlano d'amore? Io ieri sera sono stato con due signore intelligenti, professionalmente realizzate, tutta la sera mi hanno inzuccherato i globuli rossi parlando d'amore. Che era fuori tempo, fuori luogo, fuori contesto, follemente irreale. Esatto, e per lo stesso motivo, anche parlando d'amore ci si sente giovani, ci si sente come ci si sentiva a 16 anni, solo che io non mi ci sento giovane a parlare d'amore, anzi mi sento rincretinito a parlare d'amore. Che ci posso fare? Però lei conferma questa mia sensazione che esista questa nuova tendenza nel verbalizzare l'amore, nel dire oh che bello l'amore, stupendo l'amore, che soltanto una generazione fa si sarebbero staffilate a vicenda solo per aver pronunciato la parola amore, nella necessità di autodeterminazione della femmina. Sì, e trovo estremamente triste parlarne, perché poi essere innamorati e diciamo esaltare l'amore è una cosa bellissima, ma lo si può fare anche in maniera introspettiva, senza bisogno di dover dire al mondo che è bello l'amore. Secondo me l'amore si dimostra, ammesso che si possa chiamare amore, la passione si consuma come una candela, l'amore verbalizzato è soltanto frutto dei più sublimi afflati poetici, quando l'amore scompare, quando l'amore muore, quando l'amore trage, quando l'amore tradisce. Beh, andiamo avanti, vedo, chiamano solo uomini, facciamo il retrobottega del barbiere, ma mi va bene lo stesso. Corrado. Sì, buongiorno a tutti. Dica la sua. Ma io, la mia, dunque, mi stupisce, nel senso che io sono per l'amore, nel senso che è una delle componenti che secondo me fa sentire proprio di essere vivi, no? Proprio l'essere umano. Gli dà, soprattutto quando lo si scatena, fa. Si scatena, diciamo la verità, una chimica che ti dà più voglia di vivere, di affrontare le cose, ti dà un po' più di felicità. Forse ti fa sentire probabilmente anche più giovane. Noi uomini magari lo sentiamo di meno, io credo che le donne, ecco, è questo che mi stupisce, io credo che le donne siano esseri più complessi di noi. E tante volte vedono un po' più lungo certe cose, ma quando si parla dell'amore... Dio volesse che fosse sempre così, non è sempre così. Non è sempre così, però io voglio dire, dalle donne ho imparato tanto, vedono le cose, magari sono io che sono un pelino più immaturo, però ho imparato, vedono un po' prima le cose di me, non so, in generale. Sono molto più svegli. Quando si parla dell'amore, questa complessità, noi riusciamo secondo me a discernere il fatto che c'è. Ci sono degli step, c'è la passione tra voi gente, che sono cose belle, purché si abbia una visione, si dica, vabbè, a un certo punto, io dico che in generale prende una certa strada, non la passione si trasforma in altre cose, che sono tutte gradevoli. Sì, però parliamo dell'amore, perché sappiamo benissimo, quando l'amore si trasforma non ne parlano nemmeno più, dicono il mio compagno, il mio uomo. Loro vanno, stanno in questa confusione, anzi questa confusione, e loro diventano infantili, sotto certi punti di vista, perdono un po' la loro complessità e la loro lungimiranza, perché vedono il secondo, nel mio pensiero vedono più lungo di noi. Va bene. Però ripeto, tante volte lei insiste in questo concetto che è molto rassicurante. Andiamo avanti con la storia di Livia. Io penso che in questa fase particolarissima dell'evoluzione della contemporaneità la donna si scopre bambina, innamorata, e l'uomo nello stesso grado di parossismo si scopre stalker. Improvvisamente c'è l'esplosione dello stalker, e lo stalker è l'uomo che non accetta che finisce una storia d'amore, diventa assassino e persecutore dell'amore che fugge. La donna di fronte all'amore che fugge invece torna bambina, diventa innamorata, diventa una sorta di personaggio da fotoromanzo rosa. Forse non era ancora il nostro momento, perché lui poi andò via, tornò via, insomma, a Londra. Io avevo un'altra storia da poco, però a me lui mi piaceva, insomma, mi piaceva proprio la sua faccia, non riuscivo a dimenticarlo. Grazie ad internet e all'email che lui mi diede quella sera al ristorante, siamo rimasti sempre in contatto. Io, siccome poi andavo spesso in Inghilterra, spesso, magari una volta all'anno, ogni volta ci vedevamo per un tè, una cosa semplice. Ci vedevamo, poi ripartivo, stavo male. Lui era un po' seduttivo con me, era un po' piacione all'italiana, però poi puntualmente spariva. Quindi dicevo, vabbè, questa è una persona che mi piace, io gli piaccio, così. Però si comporta, insomma, come tipico maschio italiano, che seduce e poi sparisce. Andiamo avanti nel centellinare la storia di Livia, che finalmente un 29 settembre riuscì a coronare la sua ventennale ossessione per un ex compagno di classe. Lo ha seguito, taccheggiato, immaginato, allucinato, lambito per 20 anni e finalmente se l'è preso. Lo ha avvinghiato, aggrovigliato e reso schiavo delle sue passioni d'amore. Donatella. Buongiorno dottore. Mi supporti e mi conforti. Perché voi donne vi state rimbecillendo con questa idea dell'amore? No, dottore, tanto buongiorno anche agli ascoltatori. No, io ho la mia esperienza personale, mi sono sposata molto giovane, sono stata sposata a 27 anni. E poi ha trovato l'amore? Mi sono separata, sono stata sola per altri 8 anni e adesso sono 3 anni che convivo con il mio compagno, tra l'altro lui ha 8 anni meno di me. Abbiamo intenzione il prossimo anno di sposarci. Io ritengo che l'amore, come ho detto alla collega prima, a questo punto, no, della mia età, io, la mia esperienza è personale, a 55 anni per me, io non sono disillusa. Vabbè, si è ritrovata un secondo marito, mica un amore. No, è amore, anzi è stato ed è l'amore della mia vita, perché con lui riesco a condividere la quotidianità. Le ripeto, sono stata 8 anni da sola, io sono imprenditore, lavoro in proprio, però ed ero fermamente convinta a non trovare più nessuno nella mia vita. perché stavo bene, non avevo più legami, impegni. Poi ho incontrato Andrea, che è diventato il vero amore della mia vita, e per noi vivere insieme i problemi, prenderci una tazzina di caffè al mattino, poi augurarci la buona giornata, trovarci alla sera e raccontarci, per me questo è amore, cioè senza nessun fronzolo, senza nessun volermi attaccare. Beh, lei però vede, lei sta sintetizzando un'altra visione molto più razionale, concreta. Ha trovato una persona con cui condividere la vita. Sono perfettamente d'accordo che questo sia amore. Io sto parlando di quelle sue colleghe, in quanto appartenenti al fantastico genere femminile, che ragionano come bambine, parlano di amore come ne sentivo parlare alla scuola, ai tempi della terza media, e sono signore di 40 anni, hanno queste fulminanti passioni d'amore, queste storie fatte di sms, di rose lasciate sul tavolino, di palpiti, di gelosie. Ecco, questo è il terreno che vorrei sondare questa mattina. Pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé? Pourquoi se séparer? Melog 2.0. Un anno fa, d'estate, mi invitano a Londra e io decido di andare. Questa è la volta buona che ci incontreremo. Invece, io ho preso un biglietto per cui io ripartivo il giorno in cui lui tornava. E ho detto, vabbè, vuol dire che non è destino. Allora un po' ho sofferto di questa cosa, ci ho pensato di notte, ho detto che faccio, cambio il biglietto, non cambio il biglietto, cambio il biglietto, rimango 3 giorni in più per vedere lui. Insomma, ci incontrammo, era il 21 agosto 2010, mi ricordo ancora, lo invitai a pranzo così, ma quasi non successe nulla, nel senso che lui metteva le mani avanti, diceva no, ma una relazione a distanza, così. Quella volta almeno gli strappai un bacio, ma non di più, forse è andata meglio così. Al che ripartii da Londra col cuore spezzato. Questa è la zuccherosa storia di Livia, che ci ha messo 20 anni per trovare il suo amore, pensate. Un'intima d'azione centellinata per un ventennio. Un intimo sbocconciallamento con preludio ventennale. E alla fine ha avuto il suo amore, vive felice a Londra del suo amore. Questa mattina stiamo cercando di capire questo dilemma, come mai oggi esiste questa spiccata predilezione femminile nel descrivere l'amore con toni adolescenziali, anzi preadolescenziali. Guardate, io stavo guardando in questo momento, visto da quello siamo partiti, dalle parole del testo della canzone 29 settembre, ma sono ignobili. Come fa la gente a aver pensato di essere ispirata per tutto questo tempo con una canzone che dice «Seduto in quel caffè io non pensavo a te». Vabbè, è normale. Guardavo il mondo che girava intorno a me, aveva probabilmente invece del caffè l'aveva preso corretto con la sambuca e quindi girava un po' la testa. Poi all'improvviso lei sorrise, la cameriera che mi porta il caffè sorrise, e ancora prima di capire mi trovai sotto braccio a lei, stretto come se non ci fosse che lei. Vedevo solo lei e non pensavo a te, e tutta la città correva intorno a noi. Il buio ci trovò vicini, un ristorante, e poi di corsa a ballar sotto braccio a lei, stretto verso casa, abbracciato a lei. Ecco, cosa c'è di amoroso e passionale in questo? Un abbrutito che va a prendere il caffè corretto, si sballa un attimo, raccatta la prima che incontra, vanno a ballare, la porta a mangiarsi un panino e poi se ne vanno a casa. E lo dice anche alla fidanzata, con sommo dispregio della sensibilità altrui. Per masochismo racconta anche questa stupidaggine che gli è capitato di dare una botta alla cameriera una serata così. Ecco, questo è 29 settembre, su cui abbiamo articolato ventennali sogni d'amore. Cosa ne dice Marika? Buongiorno Gianluca. Eccomi. Allora, se parliamo delle ragazze... Non vada in parossismo orgasmatico prima di parlare, prima racconti e descriva il suo amore. Ah, io secondo me è solitudine. Queste donne giovani, queste ragazze giovani. Sì, ragazze giovani, io sto parlando di 45 anni media. Dai 35 ai 45. Sì, voglia di essere considerate, voglia di trovare ciò che non hanno ancora trovato, o non troveranno mai, o hanno perduto. Cioè, io ho sentito anche la telefonata precedente, per carità, va tutto bene, anche la signora di prima, che sono convinta abbia considerato il grande amore della sua vita anche quello che aveva sposato la prima volta. Poi quando passa, finisce, uno ricomincia probabilmente a cercare e ha bisogno di essere amata, essere considerata. Noi consideriamo amore tutto ciò che ci gratifica sensualmente, diciamo la verità, non è che ci innamoriamo dell'intelligenza, ci innamoriamo di qualcosa che a pelle ci fa sentire forti, belli, importanti, appagati, quello è amore. Sì, sei giovane, probabilmente c'è anche il lato estetico, cioè il fatto di sentirsi giovani a loro volta. Beh, lo dice a me, un uomo, si figura un uomo ultra cinquantenne quando si vede le attenzioni di una donna che ha vent'anni meno di lui, tocca al cielo, sì, con un dito, dice ancora posso. Esattamente, vale il discorso. Ci abbiamo inanellato tutta una disputa politica che dura da anni su un vecchio che si sente forte con le ragazzine vicino, quindi è chiaro. Adesso succede il contrario, cioè rincitrullimento, il credere. Lei dice quello che non ho osato dire, è che si stanno un po' rincoglionendo, è questo il discorso. Sì, io sono cinica. No, volevo farlo dire a una donna, che dirlo da me sembrava bieco maschilismo. Io sono perfettamente d'accordo, cioè io parlo di gamba sana, come si dice dalle mie parti. Gamba sana che vuol dire? Io conosco coscia generosa, ma gamba sana non lo conosco. No, gamba sana vuol dire una che sta bene, perché io sono felicemente sposata da 24 anni e quindi io non mi trovo in questa condizione di, almeno non lo sono ancora. E se la gamba le si ammala un po', che fa? Non lo so, ci penserò sul momento. Ci penso un pochino. Va. Gloria, grazie Marca. Gloria, buongiorno. Buongiorno. Scusi la bronchite, Nicoletti. Che stava ascoltavo il suo ragionamento. E l'ha preso un groppo alla gola? Eh? L'ha preso un groppo alla gola dalla commozione? Come sempre quando ascolto lei. Beh, andiamo al dunque, non faccia allora, provoleneggiamenti telefonici. Allora, l'amorazzo della seconda liceo, ritrovato 20 anni dopo, intima d'azione, finalmente. Ma gliel'aveva data anche allora o soltanto dopo 20 anni? Ma no, gliel'ho data anche allora e dopo. Ah beh, quindi una minestrina riscaldata. Vabbè. Seconda. La sento molto provata da questa esperienza. Ho una tragedia. Ma questi sono dei bambini. Questi hanno bisogno di una mamma, non hanno bisogno di un amante. È stato raccapricciante, vero? Raccapricciante. Cioè lei ha ritrovato questo amore del liceo dopo 20 anni. E detto facciamo una botta di vita, ridiamoci una rinverdita agli anni felici. Ecco, una cosa disgraziata. Ma avete deciso razionalmente, diciamo, vediamo se ancora come allora, come avete deciso? Perché a me vengono i brividi, ogni tanto su Facebook mi ricontatta da lontano qualche mia amica dei tempi lontani, scappo come la peste, perché so esattamente. Scappo come la peste? Sì, sì. Se rincontro, a parte che era una ragazza bellissima e mi facevano tutti la corte, poi avevo qui, è stata una cosa veramente indecente, 20 anni dopo è stata una cosa indecente. Ma indecente, non voglio entrare nei particolari intimi, è stato disastroso da un punto di vista fisico o proprio l'impatto? L'impatto emotivo. Vi siete lasciati con la vergogna di aver fatto questa cosa? Sì. Da dimenticare proprio? Sì, proprio da salutarlo, neanche salutarlo se lo incontro per strada. Beh, si curi un po', signora, perché ne porta ancora addosso lo strascico di questa esperienza devastante. Andiamo avanti ancora con la storia di Livia, perché è importante, è il filo rosso che questa mattina ci ispira sull'argomento che vedo che in realtà è molto sentito dal nostro pubblico. Poi mi ricordo il 29 settembre, a un certo punto ho detto basta, questa cosa non posso continuare a temporeggiare, ci mandavamo email, facciamo gli amiconi, così. E niente, lo chiamai, mi ricordo, era un venerdì sera, gli dissi: senti, ma ci vediamo tra una settimana, io verrei a Londra, così. Lui era un po' perplesso, però sembrava anche contento. Allora io mi presentai a casa sua, armi e bagagli, ma era la prima settimana di ottobre, ormai è quasi un anno, e mi presentai armi e bagagli e da lì nacque una grande storia d'amore che va avanti ormai da quasi un anno. Quindi insomma il 29 settembre rimane per me questa data epocale in cui proprio è sbocciato quest'amore che durava da 19 anni. Sì, e per me rimane proprio una data che non scorderò mai. Pensate se questa mattina Livia ha fatto un regalo al suo amore, gli ha portato la briochina a Londra, non so, gli ha portato il muffin, non so cosa gli darà al suo fidanzato che è ancora a letto lì tranquillo con il fiore in bocca, accende la radio e dice: senti Melog, e lui tutto felice sente questa storia e capisce, tornando a ritroso, l'errore che ha fatto. Ti si presenta una a casa, un'ex compagna di liceo, dopo 20 anni, con armi, bagagli e la valigia, e ti si piazza in casa con la valigia, ma mi sarebbe venuto da sudare freddo, invece no, infatti lì è rimasta e ci sta da un anno. Antonella. Buongiorno, buongiorno. Molto divertente tutto ciò. Devo dire che prima di tutto vorrei dire che io sono una fan assoluta e acritica di 29 settembre, che voglio dire è uscita quando io ero una ragazzina, io ho 55 anni, quindi è facile calcolare. Ma cosa le piace di questa canzone? Ma mi piace il fatto che ha accompagnato la mia adolescenza, poi, no? Nel senso che era bella, mi portava, le parole le ho ascoltate forse molti anni dopo, ma non me ne fregava niente delle parole, continuano a non fregarmi niente. Quando la sento, quando l'ho messa stamattina, mi è ancora emozionata. C'è ancora un brivido, vabbè. Assolutamente. Andiamo al punto, sì. Perché le donne stanno rimbecillendo con l'amore? Io personalmente posso dire di essere giunta, ecco, per una volta l'ho chiamata, perché in genere non sono mai d'accordo con lei, la trovo troppo cinica. Comunque sia, per una volta sono d'accordo con lei, nel senso che appunto io devo dire che a 55 anni sono giunta alla conclusione che se non ci fossero gli ormoni la specie umana si sarebbe estinta, nel senso che appunto io, superata la fase degli attacchi ormonali che mi ha portato ad avere dei grandi amori, anche a sposare un uomo che ho amato moltissimo e a perderlo, oggi sono felicemente in pace dei sensi e devo dire che sto benissimo. Vabbè, perché ci racconta questo funerale che ci mette solo tristezza? Quale funerale? Funerale dei suoi sensi, assopiti. Ma sì, ma i sensi assopiti poi li dedico a qualcos'altro, nel senso che non mi innamoro di uomini che poi oggi come cosa oggi... Cosa fa la gattara? Cosa fa? Assolutamente, ma ho una meravigliosa famiglia di gatti. Adottiva e una gran quantità di cani, gatti. Vedi come ci ho beccato subito. Vabbè, sono contenta. Sì, però si rende conto che vulnus terribile è nel piacere dell'umanità una donna che dice ho raggiunto la pace ai sensi, mi occupo di gatti. È veramente è un lutto, devono suonare le campane a morto. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Certo, è stata dura essere credibile, farsi accettare da un uomo che ti ha come fan, neanche come ammiratrice per tutti questi anni. In effetti, diciamo, ho dovuto scongiurare i suoi diversi pregiudizi, pensava che fossi una psicopatica, non so, una persona che per tanti anni coltiva il mito. E invece poi alla fine siamo tutti normali, voglio dire, poi nella vita di tutti i giorni, poi queste cose vengono meno, poi insomma ci si alza la mattina, si fa colazione, si va al lavoro, si torna la sera, si vedono i film, poi tutti questi miti vengono meno e ora siamo due persone normali. Però certo è carino raccontarlo, sembra una favola. Beh, oserei fatta anch'io qualche domanda. Una persona che dopo 20 anni ti arriva con le valigie a casa e ha coltivato il mito. Come si fa a essere il mito di una persona? I miti esistono solo nella mitologia, i miti sono semidei, i miti appartengono a quelle vicende fantastiche che l'umanità si è costruita per spiegarsi ciò di cui non aveva altra spiegazione. Come fa una donna a dire il mito di un uomo? Come fa un uomo a convivere con una donna di cui è il mito? Sarebbe terrificante stare una donna che ti mitizza, sta lì ad adorarti tutto il giorno, una cosa terribile. È bello stare con persone che ti mettono continuamente di fronte ai tuoi limiti, è una maniera per superarli, però questo è il mio punto di vista. Angela. Sì, buongiorno a tutti. La sento un po' in secondo piano, si avvicini al telefono. Allora aspetta un attimo. Spenga la viva voce. Sì, meglio. Sì, no, adesso è peggio, proprio andata in un'altra stanza. Eh? Ma cosa sta usando? Un telefonino normale, usi un telefono normale? No, è un cellulare. Ecco, sì, però perfetto. Sono in un cantiere, sono e... È un cantiere, per cosa fa lei? L'operaia è un cantiere? Restauro affreschi. Ah, sta restaurando l'affresco. Quindi ha fermato un attimo il suo lavoro, ha posato sì. Il pennello per raccontarci sì. La sua esperienza. Sì, sono emozionatissima, sono molto emotiva. E contenga l'emozione. Di essere anche chiara. Dunque, ascoltando la storia di Livia, dal mio punto di vista la trovo una storia anche abbastanza razionale, nel senso una donna che insegue un suo sogno, un suo mito, però comunque rimane fedele a ciò che le è nato dentro fin dall'inizio. Beh, fedele, in questi 20 anni si è concessa a plurime intime d'azioni, ce l'ha confessato, anche molto soddisfacenti, lo dico nel caso stesso all'ascolto, non è che è rimasta lì a aspettarlo come Biancaneve aspetta i 7 nani, cioè, alla fine diciamo ha fatto una cernita, si teneva sempre questa riserva lei. Sì, lei è rimasta come una storia comunque che doveva vivere alla fine. Una cosa che non era risolta e quindi ha dovuto affrontare. Sì, ma una volta risolta cosa significa risolvere una storia? Significa cogliere il frutto tanto desiderato. Una volta colto, quanti sono i tempi di resistenza? Perché ogni mito, quando si vede tutte le mattine in pedalini sporchi, esatto, con l'alito pesante, alla fine si demolisce lentamente. Sì, esatto, esatto. No, non si sa, i tempi non si possono conoscere. Si sa solo che si può iniziare una relazione, giusta o sbagliata che sia, semplicemente perché ti senti di dover fare questo tipo di esperienza. Ma lei ha un'esperienza personale paragonabile? Per quello che mi riguarda, no. Paragonabile sia alla un'ascoltatrice di qualche telefonata fa e sia a quelle adolescenziali. Ma qual è la sua storia? Lei cosa sta vivendo l'amore in questo momento? Sta vivendo l'amore, sta vivendo una storia razionale dalla quale non mi staccherei, nel senso che mi piace appunto svegliarmi la mattina, mi piace stare vicino a questa persona e mi piace anche tutto quello che è il lato emotivo. Ma dall'altro lato sono, sì, io forse una persona molto emotiva che ho rincontrato, una persona che non avrei dovuto incontrare probabilmente, che conosco da 10 anni, e con questa ho perso la testa, mi sono lasciata andare più che altro, secondo me, comunque. Quindi lei vive un'ambiguità di intima d'azione, si divide fra due uomini? Mi sono dimesso, adesso ho smesso. Ha smesso, però il cedimento c'è stato. Ho avuto questo tipo di... Però lei dovrebbe domandarsi, ma sì, ho fatto questo passo, evidentemente qualcosa non funziona nel mio rapporto, cioè dovrebbe metterla in crisi. Non è vero. Come fa a guardarlo con gli stessi occhi? No, lo dico per seminare zizzania. C'è stato un momento in cui... Ha confessato questa cosa? No, non si può. No, non si deve mai. Cioè, no. Confessarlo significa crearsi un nemico a vita. Esatto. Vabbè, comunque sono contento. Però lei giustamente ha relativizzato la storia del grande amore. Vede che il grande amore significa... Quello che dicevo ieri, le mie amiche non mi capivano. Uno vive il grande amore eterno quando decide di blindarsi come una suora di clausura, si mette dietro l'inferriata e stira giù il velo e si dedica alla contemplazione e alla ricerca dell'assoluto, e vive fuori dalla tentazione, perché oltre le mura di nuda pietra e le consorelle non ci sono altre tentazioni. Ecco, se uno vive in questa situazione di claustro, naturalmente è esenta alle tentazioni, ma se uno vive la vita, ogni giorno viene relativizzato il nostro grande amore. Quest'anno d'amore, come dice la canzone, è stato bellissimo e per me nuovo, perché io mi ero sempre innamorata dei miei migliori amici, quindi persone che già conoscevo benissimo. Invece questa volta mi sono messa con una persona che avevo solo sognato, come avveniva, non so, nei romanzi di Jane Austen. Diciamo, la relazione ha retto all'impatto dei calzini. Lui lascia i calzini per casa, però li lascio anch'io per casa, quindi sono più disordinata di lui, e questa cosa credo che ci abbia molto agevolato, perché io non mi arrabbio quando vedo le sue cose in giro. E sono contenta, che devo dire. Però è una cosa bella, perché io mi sono sempre considerata sfortunata in amore, invece anche a 50 anni ci si può innamorare, perché bisogna per forza farlo da giovane. Uniti dalla bromidrosi, che sarebbe la traspirazione pesante dei piedi, questi due esseri umani galleggiano la loro meravigliosa storia d'amore. Avrei molte ascoltatrici che vogliono parlarmi, ma siamo arrivati alla fine di questa trasmissione, che non ha avuto grandi conclusioni, ma mi ha dato alcune certezze, alcune conferme. C'è ancora speranza, c'è ancora qualcuna che ha voglia di riflettere, e c'è ancora qualcun'altra che vuole darsi così completamente a questo sogno dell'amore. Non possiamo che sperare, immaginare di essere fuggevole preda anche noi di queste passioni amorose, con la riserva che in realtà è poi molto difficile scrollarseli addosso, e viene l'effetto telecomando, quel desiderio insopprimibile di spegnere la persona che ti guarda innamorata, che ti sogna e che ti anela. Voi donne riflettete che ogni tanto l'uomo pensa che forse sarebbe il caso di spegnervi quando siete così innamorate. Grazie Valerio Rocchetti, grazie Fabrizio Intonti, ci sentiamo domani. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.